chiamavano a tutte le ore della notte, poveraccio. Aspetta. No, c'è un altro, aspetta. Questo no, aspetta, poi c'è questo qua. No, questo neanche, ne ho tante. Andrea. Sì, capa, dimmi, sguscio. Io quando vieni qua che proviamo la magnetica a vedere come arrivo con quella uguale alla tua? Quando vuoi, dimmi tu, sei tu incasinato la notte? No, io sono a casa con i bambini, già lo sai, tutta la sera, fino alle 9. Anche domani o dopodomani, se c'è qualcuno però da questa parte è collegato, altrimenti... Mi senti, aspetta. Divertivo un sacco, dai. Abbattava qualcosa di sottovoce, e lui impazziva. Capagazzo. Va bene. Mi sa che mentre state chiacchierando mi sposto l'antenna a vedere se riesco a sentire meglio mio brother. Comunque mi sei abbassato il QRM e ti ascolto meglio, sguscio, Segnale 8, radio 5. Ho anche abbassato un po' qua, posso alzare un po', ma vado in saturazione, quindi lo lascio a 3/4, così già va bene. Ma 4.500, io guarda, mi sono fatto tanti anni con quello, tanti anni, no, bugia, no, però ho iniziato con quell'apparecchio lì, che non lo trovo, poi se lo trovi trovi mondezza, me la trovi qualcuno che ce l'ha buono e comprarlo. Sì, perché mi piace un sacco l'apparecchio, bello. Vabbè, fai la prova, siamo qua, avanti Andrea. Aspetta un attimo, Luca, dirgli se c'hanno l'FM, così a sguscio lo sento meglio, che è lontano. Vediamo un po', sguscio, passa l'FM. Io ce l'ho, passo anch'io. Tu ce l'hai l'FM, Andrea? Ah sì, ce l'ha questo apparecchio. Ok, vai, andate in FM. Non c'è in FM però. Capo, andate lì, vai in FM. Non c'è la radio, scusa, non ti ascolto più la radio. Non c'è la radio. E la radio sono al massimo, andate lì. Non è quale, non è 4.500. io sono in AM, dai. K, Andrea, ci sei? Copiate, mi copiate, sguscio, mi copi? Sì, sì, ora ti sento. Ho migliorato moltissimo, non so per quale, cosa hai fatto oggi alla radio. Io? K, io non ho modificato niente da ieri, ma oggi è un altro pianeta, No, sta piovendo qua, quindi si è bagnata, sicuramente c'è qualcosa in corpo e sta funzionando meglio. Ascolta un attimo, sguscio, ma stai usando il microfono originale o il microfono da tavolo? No, l'MB4 c'ho. Ah, l'MB4 come il mio, capito. Che avanti. Azzardo. Ciao, Azzardo. Automan. Ciao, Automan, come stai? Sì, a Blue Star. Beh, Antu. Quindi te lo ricordi, Antu, posso dire sì a sguscio? Una cosa, me lo ricordo, sì, o qualcosa del genere, ma l'avevo messo. Buonasera. Sì, buonasera anche a te, ben ascoltato. Kappa, io sono tornato dopo circa 20 anni, forse anche di più, a rompere l'anima e a ritrovare i vecchi amici, dai. Come fanno un po' tutti. Vabbè, dai, in compenso ti sei fatto figli, noi no, anzi io Natalino, vabbè, Antonio sì, poi il resto della gang, Gianni sì, quasi tutti, dai. Vabbè, anche tu te ne hai fatto figli, stiamo facendo i figli degli altri. Infatti. Ciao Antonio. Ai Natale, quanto sei bello. Io ce n'ho lì. Quanto mi piace la tua voce così calda. Quando fa così io la temo lì. Mi tema pure. Santo, giumai aveva fatto in cui gli smitter. È vero, sto provando questo apparecchietto, mica mi hanno trovato per regolargli la LC. Perfetto, Antu, è una bomba. Ma col microfono normale, palmare sono, Sì, Antu, è una bomba, ti ascolto benissimo, perlomeno io, poi non so gli altri. Che apparecchio è, Antu? Un piccolino della linea K, il piccolo piccolo. Il 50? No, il piccolo, quello vecchio. Ah, il 14. Esatto, sì. Tu già un giorno che non ne vedevo più. Un K. Ma tu che te l'hai piazzato da lì a casa tua, la boomerang? Ehi, la boomerang quella grande però, quella in alluminio. È come la mia, quella che c'ho giù, dai, ho capito. Quando ti arrivo di segnale, guarda un po', ci arrivo a 9. 25, quasi 30, sì, quando parli, eh. Infatti c'ha il picco di modulazione questo qua. Oh là. Va bene, dai, avanti Andrea, per Antonio, noto riserva. Ciao Antonio, ben sentito, come ti arrivo? Ciao Andrea, ben ascoltato anche a te, segnale 9, radio 5. E basta. Ehi Natà, tu sei come Lucca, stesso segnale, stessa modulazione. K. Aspetta un attimo che ti voglio far vedere questa, la modulazione, un attimo. Guarda un po' adesso come sto uscendo, Antu. È più alta, questa è la modulazione più alta. Kappa, là, torno come ero prima. Ok, se non si intende di rompere il televisore, se c'è mia moglie se lo sta guardando. Tanto è stato per guardare. Uiuia. E allora, Lu? Allora niente. Adesso mi bevo un po' d'acqua, niente, mi sono andato a un funerale, molto, un vicino di casa, purtroppo non stava bene, ha avuto 4-5 ictus, però sarà sempre scampata, poi è stato male, poverino, 79 anni. Ma quelle sono malattie che comunque ti lasciano sempre il segno, anche se te la scampi 2-3 volte, però non è che sei più lo stesso. Sì, ma infatti non pronunciava bene più i nomi, capito? Il mio me lo diceva così, ma tanto quella zia non lo diceva bene il mio nome. Tipo la moglie che si chiamava Giovanna, la chiamava Giovanna. Anzi, ce l'ha anche... gli è anche andata bene, perché molti comunque perdono anche le funzionalità motorie. E poi ultimamente non ce la facciamo anche a camminare di più, era messo male. Messo male, male, male, male, Antu, male. Ioia, poveri noi. Dai, dai, che vi lascio, che lo chiudo, che glielo porto. Lu, ci sentiamo, ciao Natà, ciao Andrea e ciao anche a Sguscio. Sguscio, di che non sentivo più. Ha iniziato a modulare Lu quando avevo smesso io, nel 2004 forse. Anche prima, Antu. Perché io mi ricordo che ti ho sentito, sì, vabbè, io ho smesso nel 2004, avevo staccato tutto, però mi ricordo che ti ho sentito qualche nel frangente prima, forse 2003, 2004. Sì, sì, mentre mi riesco mi sto ricordando. Ah, vabbè, dai, vi saluto, buon abbraccio, ciao a tutti. Un abbraccio particolare a Natalino, che lui è anziano e ne ha bisogno. E sono anche messo male. Ciao Antonio, ciao. Fatti sentire. Ciao a tu, alla prossima, ciao, avanti sguscio. Vedi che piano piano sembra che sentano l'odore i vecchi CB che rientrano ogni tanto, dai. Bello, bello, bello. Allora Natali, dimmi una cosa, ma Mastrale che fine ha fatto, tu che eri fidanzato con lui? Natali, capito cosa ti ha detto? No, c'è la televisione e mi arriva basso basso, ripeti tu cosa ha detto? Ha detto che fine ha fatto Mastrale visto che eri fidanzato con lui. Maestrale è in Austria. Senti l'altro. Ah, aspetta, Salvatore, Salvatore Maestrale, sì che l'ho conosciuto, cavolo. Quello che faceva le rettifiche. A voglia, cavolo, non capivo, ero lì, lì per lì. E poi c'era un altro maestrale. Però quello faceva il corriere. Sì, sì, l'ho conosciuto a Salvatore, a voglia. Sì, in Austria, in Austria. Ma ha trasferito l'attività lì o proprio cambiato vita? Sì, sì, proprio là se n'è andato. Lo fa là quel tipo di mestiere. Certo, vabbè, se sta bene sono contento per lui, dai. Cappa, cappa. Vabbè, non ci vuoi fare, purtroppo. Salvatore, cavolo, ci andavo spesso nella sua officina anche. Cioè, vabbè, spesso, ogni tanto facevo un salto per una cosa o per l'altra. E va bene, avanti Andrea, ripeto. Poi anche con un po' di ritardo saluto Antonio e niente, sì, anche questi nomi riaffiorano i ricordi, adesso il tempo passa ragazzi. Passa sì, io purtroppo sono messo male di salute, vabbè, infatti ho rinunciato a tante cose, vabbè là, già ci vedremo di persona al limite, quando potete me lo dite, tu Giuseppe, se vuole venire anche Luca. Con piacere Nathalie, con piacere, così ci racconti un pochettino anche delle tue peripezie. Mi dispiace, già stai uscendo però. Sì, sì, già posso uscire, non c'è problema. E allora non troppo in là ci organizziamo, va bene, una mini rimpatriata, così ci raccontiamo qualcosa in bassa o di persona meglio. Vedi, se Sgusso l'ha mantenuto il numero dovrebbe averlo, perché è sempre lo stesso. Aspetta Natali che controllo. Se lo facciamo in modo di riscambiarci, Natali. Cappa. Ma qual è questo? 347 7. No, sto scherzando, no, non ce l'ho più Natali, perché ho cambiato tutti un sacco di telefoni nel frattempo e ha giubbesso tutto. No, non ce l'ha più Natali, ha detto. Ehi, vabbè, non ci vuole niente, no. Ma ci vuole un attimo per passarci i numeri. Io ho problemi di passare il numero, non ne ho, perciò l'ho sempre passato. E si può anche fare così, non c'è problema, dai. Nel caso vi do il mio e poi vi passo quello di Natalino. Cazzo, sì, tanto mi non c'è più il coso dell'anonimato. Ormai tutto liberalizzato, non c'è più paura di nulla. Non c'ho problemi, cosa. Non c'ho niente da nascondere, capito? Non è che. Prima quando si modulava che non c'era la concessione, vabbè i telefoni che ce l'avevano tutti prima, qualcuno. Poi ho iniziato io il primo telefono nel 94, c'avevo quel Motorola che sembrava un metaforattino. 8009 magari ci avvivi come me. Città di Alessia Marchiuzzi dell'Harley Davidson, il Motorola saponetta, Blitzisu. No, c'avevo il D470, quello con la tastiera, no? E poi ho avuto l'8007 International, forse anche l'8009, adesso non mi ricordo, ne ho avuto io, telefoni ne ho avuto veramente tanti, forse ho perso il conto. Capo anche io, la verità. Va bene. Vado un attimo in bianco, se ci sei ancora Luca, prova a centrarti meglio con l'antenna, che così magari sento meglio Brother anche. Sì, vai tranquillo, sono qua io, dai, non devo fare niente. scappa a dopo. Almeno un po' si ripopola, dai, questa frequenza, perché alla fine cioè, spendi soldi per che cosa? Che poi non vendi nessuno, anzi devi aspettare le belle giornate, quando c'è propagazione ti fai due collegamenti, cioè colleghi come io sto parlando con te adesso, tranquillamente. Bello. E non so poi chi vi ricordate, tu vabbè, il nominativo tuo qual era, Andrea? Ah, io mi facevo chiamare Malintedo ai tempi, però sono uscito poco, voi conoscete soprattutto Sguscio, perché noi eravamo al contrario, cioè io ero il fratello grande ma era lui che comandava, capito? Ah, ecco, tu sei più grande di Sguscio. Esatto, io sono il parallelo grande, sì, di 4 anni. Ah, boh, magari avrei l'età mia, dell'anno mio, forse sei più grande, boh. 71 sono, non so quanti anni hai tu. Ma ne hai 23, 74. Sicuramente avrò l'età di tuo fratello di Giuseppe. No, forse 76 Giuseppe, qualcosa, sì, 76 credo che sia, una via di mezzo. Ma siamo lì, la nostra generazione. I miei figli non ne vogliono manco sentire parlare di queste cose, sono sempre attaccati a quel cacchio di cellulare, ipnotizzati, cacchio. Sì, è vero. No, io lo uso molto anche per lavoro, dai. Lo uso, ricerche e quant'altro. Sì, quando devo fare un ordine vado su col telefono e via, dai, ci metto un 2 secondi, ordinami qualsiasi cosa. No, per quello già va bene, è che questi social gli stanno mangiando il cervello, almeno per i miei figli dico, perché questi interessi almeno ti obbligava a conoscere qualcosa sulle antenne, a studiarti qualcosina, se volevi poi farti smanettare su altre cose, adesso invece non si sa che cosa stiano imparando dai cellulari. Nuda, dei metodi ne sono magneti. È così. Allora tu conta, l'antenna mia è stata buttata giù, fatta tutta a pezzi, tutta rimessa a posto perché non andava più, era praticamente morta. Un amico me l'ha tutta risistemata bene, niente, da, l'abbiamo recuperata di nuovo. Non lo so, come può fare 10 anni, come ne può fare 20, chi lo sa, magari muoio prima io, l'antenna rimane sul tetto. Vabbè, ma l'importante è, come dire, è collegarci sempre a qualcosa e parlare finché si può. Poi qualcuno, visto che si diverte anche come radioamatore, su frequenze diverse, in realtà, come dire, questa è un po' più bella, perché al limite ci si ritrova senza grandi pretese. Sì, chi ha la patente lavora in quelle frequenze lì. Chi se lo può permettere, purtroppo io non ho patente, non ne ho, ma comunque già va bene così, io faccio ascolto, c'ho la licenza d'ascolto, faccio ascolto. Andrea, mi senti adesso? È sempre uguale. È un po' più basso, Sguscio. Capo, non ce la faccio, bisogna essere in due a fare questo lavoro, cioè mentre si muove uno controlla lo smitter, altrimenti è un casino così. Io ho una curiosità, ma stai uscendo a 4 watt? Stai uscendo? Stai uscendo basso o con l'aiutino? No, sempre con l'aiutino, se stai con l'aiutino non mi sente nessuno. Allora è solo questione dell'antenna, Giuseppe. Lo so. Vabbè, dai, appena posso. No, volevo provare la tua, la magnetica, e vedere come arrivo e se arrivo, perché almeno quella è registrata e calibrata. Poi vediamo, se non arrivo manco con quella ed è un casino, magari ne prendo un'altra, capito? Perché volevo una soluzione portatile anche. Ma a me dovrebbe arrivare la boomerang abbastanza in fretta, appena la piazzo ti do la magnetica e facciamo una prova, e mi sta arrivando anche un aiutino piccolino, la metà del tuo, ma forse ci sentiamo meglio così, capito? Capo, sì, ma per fare una prova e poi me la compro, tanto non è un problema quello, è che prima di comprarla, visto che ce l'hai, la volevo provare, capito? Tanto la magnetica bisogna averla per la barra mobile in un modo o nell'altro, perché così sei autonomo, ti sposti eccetera, e una fissa però ci vuole decente. Va bene, dai, già proviamo, magari in questi giorni se ci sono gli amici qua sul 10 magari facciamo un paio di test, dai. Avanti Luca. Sì, Antonio, ci sei? Sì signore. scappa. Ma cosa, almeno lo senti bene ad Andrea, sì? Ad Andrea lo sento benissimo. Purtroppo la colpa è mia e ho l'antenna bassa, finché non piazzo l'antenna nuova mi devo accontentare. Ma te l'ho detto, organizzati per quanto riguarda l'antenna e così ti prendiamo un sabato. Ma se domenica è ancora meglio, va. E se la stiamo sopra, avevo un nuda a me. Non ci vuole niente, ci vuole più adito che a farlo, guarda. Già lo so. Cioè, organizzati, Natali. Qua non devi fare niente, non devi fare visite e quant'altro. Vabbè, domenica non le fai visite, no? Ma domenica mattina, cioè adesso dalle 9 a mezzogiorno, guardate, già su, già sistemate tutto. Capito? Però prima di piazzare l'antenna, cioè controllare bene l'antenna come è piazzata. Organizzarla bene, sai com'è, quell'antenna lì con i venti è un casino. Però ho visto che a giorni li funzionava bene, dai. Vedi un po', ti organizzi e ce lo fai sapere. Ehi, e Natalino? Natalino, Giuseppe. Adesso ti sento meglio, Ma lo stai copiando, sguscio, vero Natalino? Basso, basso, e poi c'è la televisione che disturba qua. Avanti, sguscio. Sì, l'ho più o meno rimessa come era prima, che sento un po' meglio te, Valenteddu. A me arrivi molto meglio adesso, Cioè non mi muove lo smitter, sei Santiago 0, Radio 2, però capisco quello che dici. KK, ma io sto lavorando veramente in condizioni precarie, ti ripeto. Va bene, dai, già la risolviamo questa cosa. Ah, a proposito, Luca. Dimmela tutta. Ascolta, per farmi un dipolo, ho già visto le misure, ho già visto tutto, come piazzarlo, eccetera. Una curiosità, ma il dipolo lo posso attaccare al muro? Deve essere staccato dal muro? No, il dipolo lo devi mettere sul tetto, non al muro. Ho capito, siccome io ho una casa su tre piani, al terzo piano lo faccio scendere il dipolo, ma può portare attaccato alla facciata? Mi sa di no, non risuona, Quindi i fili devono essere liberi praticamente. Sul tetto non lo puoi mettere, da un, non so, da un'antenna all'altra. E se no lo metti a V invertita, basta che abbia un palo, anche di PVC. Esatto, ha ragione Natalino, un dipolo orizzontale è una direttiva, così mi hanno spiegato, dipolo verticale invece è un casino perché è molto alto, è alto 5 metri e passa, mentre a V invertita con l'apice verso l'alto fai 2,77 da una parte, 2,77 dall'altra, a occhio poi la devi accordare e il PL al centro, è vero Natalino? Ehi, glielo faccio io il dipolo, non c'è problema. E lo posso mettere sul terrazzino così, che ce l'ho lungo 6 metri. Fai sporgere un palo dal terrazzino verso l'alto, Giuseppe, capito? E poi si apre a V come se fosse una V a testa in giù. Anche una canna da pesca può mettere, no? E ci mette il dipolo a V invertita. Cappa, V invertita sì, però non è orizzontale quello. No, a V invertita tu metti il palo che sporge verso l'alto e poi da una parte all'altra, tipo una tenda canadese, capito? Devono scendere i due dipoli, uno a massa e l'altro sul centrale, vero Natalì? Eia, già glielo spiego io. Quindi Giuseppe, al prossimo caffè Natalino ci fa il disegno. No, gli posso costruire il dipolo e glielo do direttamente. Lungo 6 metri, volevo chiedere se quello orizzontale, tanto io ho Sassari di fronte, quindi punto per forza, punto a Sassari in direttiva, non posso puntare da un'altra parte. Ma dove sei a Tissi, in alto? A Tissi sono praticamente all'ingresso e davanti vedo il grattacieli di Sassari, ho tutto libero davanti, non c'ho nulla. Per quello che arrivi bene, dai. Natalì, toglimi una curiosità. Ho messo orizzontale, dimmi. Aspetta, no, guarda. Un braccio del dipolo centrato, sul canale 20. Stava parlando tuo fratello Andrea, solo un attimo, cosa stavi dicendo, sguscio? No, ho detto, visto che ho tutto libero davanti, magari posso provare anche con un dipolo orizzontale, stile direttiva, tanto comunque punta verso Sassari. Ho capito, sì, anche. Avanti Andrea, riprendi. Stavo chiedendo a Natalino quanto deve essere la lunghezza di un braccio del dipolo centrato sul canale 20, per esempio, 2,60 m, 2,70 m. Soprattutto... Vuole 2,75 m e poi da lì tagli, prima una parte e poi l'altra, finché non scendono le stazionali. Ah, capa, quindi te lo accordi in base alle stazionali, quindi inizi con 2,75 m, sempre a V invertita, vero? Eia, perché è un direzionale, capito? E l'angolo di apertura della V quanto deve essere rispetto al palo? A 45 gradi va bene, però più aperto è meglio è. A 45 per ogni parte vuol dire 90 gradi in tutto tra i due fili, vero? Dovrebbe essere così, sì. Vuole tipo tenda canadese. Capa, che secondo come lo provo anch'io qua sul terrazzo con un palo che faccio scorgere verso l'alto, chi se ne frega, una prova tanto è gratis. Ma esce forte il dipolo, l'unica cosa che lo devi tenere lontano i bracci almeno un metro per risuonare bene e per non dare problemi. Cioè deve sporgere all'esterno di un metro per non avere ostacoli, insomma. No, non deve toccare le punte dei cusi, le devi legare a uno spago, lo spago devi legare praticamente. Dopo già ti faccio gli isolatori, tutto, non c'è problema. Capo, ho capito. Spago un pezzo di nylon alla fine, insomma, che li tenga bene tesi. Infatti. Grazie Natali, grazie. Sì, di cosa? Bianco un attimo. Natali, ancora questo Gavinuccio Cannon non l'hanno trovato, quello si chiama, il cantante. Come? Gavinuccio Cano, quello che è sparito a Sassari. No, non lo so chi è. E vabbè, uno che canta sassarese. Io capito, e l'hanno trovato. Oh, mi hanno appena scritto, siccome io sono pilota e istruttore di droni, mi hanno appena avvisato se andavo a cercarlo col drone. Sì, infatti. Sto cercando gente per... ho letto adesso, dai. Chi ha il drone, di presentarsi lì e fare la ricerca. E adesso ho contatto dove sono iscritto io a vedere se ci muoviamo come protezione civile o ci muoviamo da soli. Boh, chissà che fine avrà fatto questo qua. Boh. O è morto da qualche parte, boh, chi lo sa. Oh, poverino. Con questo tempo brutto, guarda. Sì, qualcosa deve essere successo. Speriamo che lo ritrovino. Vabbè, chissà, magari aveva problemi quel ragazzo. Alla fine anche giovane, chissà che problemi, ma era depresso, chi lo sa. Non sappiamo niente, ma speriamo bene, va. Scappa. Domani è giovedì, tutto il giorno. Oggi è mercoledì, cavolo. Va bene. Mamma mia, casino ragazzi, è un casino, poi il tempo di merda oggi va. Cappa. E adesso. E dice che arriva un'ondata di freddo adesso, Rupert. Dice che capelli. E c'hai ragione, buonasera. Ehi, quanti si dice? Te fusoio, Ciao Cristian. Ciao Cristian, aspettate un attimo, però non riesco a accordare. Devo essere a Gosa, devo essere leva, amici, mi è entrata. Purtroppo è. Ma più di così non riesco a accordare, Io ci credo, Ciao Cristian, avanti. Cavate, è piovendo stato. Stai parlando uno sopra l'altro, avanti Cristian. Ma a te piovendo sta? Fendeva Ma non ci credo Oggi sono fatto la cacchia di cane, di Bertuccia. Tutto dei pioventi ogni paranoia. Lo so, tempo suo no. Poi quando arriva il caldo, è caldo brutto, affoso, che non puoi uscire manco fuori perché c'è troppo caldo, poi devi stare a bere birra fresca, no? No Andrea. Io non sono alcolico. Io Cristian lo sento lontanissimo. Ciao Cristian. Sulla birra c'hai ragione. Ti copi Cristian? Ti sento basso. Ciao, anch'io ti sento basso. Come faccia tuo fratello qui, Antonio, entra. Ma sento basso, come vai? Vabbè, magari sei in zona negativa per lui. A me basso mi sento. Adesso sento benissimo, non ho problemi con te. E lui sento il basso di radio di Santiago. Ehi, vabbè, lui c'ha un antennino, capito. Vediamo un po' se ascolti a Sguscio da Tissi. Avanti, Sguscio. Giuseppe Sguscio, vieni avanti. Mi sa che non c'è. Sta controllando l'antenna. Comunque, Natalì, e beh, accordato hai la chitarra. Natalino! Stai chiamando la moglie, sentite? Luca! Zia Concetta, ciao Roberto! Ciao a tutti, sono entrato a piede unito, dai! No, risolto con l'antenna Luca! Sì, il maestro l'abbiamo adatta! Ho visto il video che ha fatto, un bel lavoro ha fatto Fabrizio! Solo lui la poteva sistemare in quella maniera! Ci vogliono gli attrezzi per farlo, dai. Poi si è preso un bel impegno e cioè, si è impegnato un bel. Sì, a posto, vabbè. Diciamo che la devo tarare un po', C'ho sul 45 a 1,7, 1,8. Ah via, no, ha già fatto nulla, si è ripresa da sola lui. Meglio così, Robe, guarda c'è Sguscio, da Tissi, poi c'è il fratello Andrea, lì zona Sassari, da Natalino e Cristian, avanti Robe, riprendi. Sì, buonasera a tutti, questi due nuovi non li conosco, non li ho mai sentiti. E chi è questo di Tissi, come si chiama? Sguscio, io già l'ho conosciuto, ma tu ancora non c'eri neanche in frequenza. Ti mando avanti il fratello, avanti Andrea. Ciao Roberto, piacere, noi siamo rientrati con Sguscio, mio parallelo, dopo una ventina d'anni e abbiamo trovato una bella comunità. Ciao. Ciao, ben sentito Andrea. Roberto da questa parte, dove ti trovi? In che zona sei tu? Io sono via Mendola Bassa a Sassari e tu dove stai modulando? Io sono zona Stadio, su verso Piazza dei Segni, ti ascolto perfettamente, 9 più 15 quasi 9 più 20, penso che anche tu mi ascolti perché già siamo abbastanza aperti uno per l'altro. Capo, a fondo scala anche per me, perfetto, io sono in condizioni di emergenza, c'ho una magnetica a testa in giù attaccata al bastone della tenda in camera. E quindi stai andando alla grande. Mentre l'altro amico, tuo fratello, come si chiama? Si chiama Giuseppe Sguscio ai tempi e anche adesso, però forse si è assentato un attimo, lo sentiamo basso basso perché anche lui c'ha un'antenna di emergenza, direi ce lo dobbiamo piazzare seri adesso, va. Vediamo se c'è, avanti, come ha detto Giuseppe da Tissi, così. Va. Vediamo se mi ascolta, avanti Giuseppe da Tissi, Sguscio, così. No, ma forse non sta parlando perché Tissi sono abbastanza aperto, io tutta quella zona lì la faccio bene. Poi c'è l'amico carissimo Natalino, se ci sei batti un colpo. Ciao Robè, buonasera, ben sentito. Le cose di là non c'è nessuno? Ma ci credo, non ho neanche acceso, sto guardando, ho acceso qua perché ho acceso un attimino, ho detto vediamo a Luca l'antenna, ho sentito un attimino, ho detto aspetta che gli chiedo informazioni all'antenna. Comunque da parte mia Luca sta andando bene, è il solito segnale, quasi 9 più 30, pulito, chiaro e recoaro. Non ho migliorato allora, è sempre uguale. Uguale come di prima. Tendente a 9,30, quei picchi sei a 9 più 30. E tu sei quasi a fondo scala qua. Sì, guarda, Andrea sta arrivando veramente bene, da me non dico che quasi quanto è temi, lì si avvicina molto. Vabbè, io non ho stacco, io verso giù già sono abbastanza aperto, dai, magari per altre zone posso essere più chiuso, ma la zona bassa già la faccio bene. Vediamo se c'è l'altro amico di Tissi, se mi ascolta, avanti l'amico di Tissi. Non lo so, vabbè, io c'ho il cuore a me alto, c'ho il cuore a me a 7 qua. Ok, e di nuovo Andrea, te il mic, che cosa stai utilizzando, che radio stai usando? Ma c'è ancora? Andrea, ci sei ancora? Così ho detto giusto, Andrea, Luca. Sì, Andrea, ci sei, e poi sarà al telefono. E poi c'è anche Cristian, però Cristian non lo sei. Cristian, ci sei? Ci sono. Ciao Cristian, mi hai sentito anche a te. Tu sei 9 più 5. Sì, sono sulla Budi Budi facendo gasolio all'Agip. Dove sei? Budi Budi all'Agip, facendo gasolio gasolio perché sono a Maga Secco. Ok, no, già ti ascolto. Ok, vediamo se c'è di nuovo un amico nuovo entrato, almeno da parte mia che non ho mai sentito. Andrea, avanti, se ci sei. L'altro ditissimo, non lo sento io. Quindi tutto a posto, Luca, sono contento, dai, almeno è risolto. Poi piano piano vediamo qua la soluzione, se la vuoi sollevare studiamo il coso del come si chiama, per il sostegno. Sì, allora le staffo io tutte le vigate, una passatina di di spazzola gli ho dato la bomba, lo zingato, da. C'è anche Claudio, avanti Claudio. Aspetta, venire là, ciao a tutti, ciao. Ah, ma si è messo il vendizoso, Claudio. Io sono il numero uno della radio, quindi la mia modulazione è questa. Conto che siamo in buona testa, ciao. Già vengo troppo, sono venuto a salutare con la sentita Luca, volevo chiedere dall'antenna se è tutto a posto, poi ci sono altre due persone nuove, che uno è Andrea che l'ho salutato e l'altro è il fratello, però non l'ho sentito. Eccomi. Ecco, sono tutti e due, ciao Andrea, ciao Giuseppe, ciao Luca, ciao a tutti. Mi sto spostando, lei c'è Gianfranco in VHF, ciao, ciao, ciao. Ti raggiungo tra poco, Cla. Ok, cosa volevo dire? Andrea, ma tuo fratello non c'è, non lo sento io. Eccomi. Sì, Andrea, sei tu? No, sono il fratello, sono Sguscio, ciao. E tu sei a Tisse? Cappa. E qua sta arrivando una bomboletta, 69 più 15. E tu dove sei? Io sono a Sassari, zona alta, zona stadio, eh. Cappa, ho messo la mini boomerang al contrario, stile direttiva, e si vede che ce l'ho puntata sulla tua. Ti ascolto perfettamente, penso anche tu mi ascolti. Tu sei 9.20 con picchi di 9.30. Addirittura sei quasi come tuo fratello è via Mendola, ci avete lo stesso segnale. E aspettatemi in piazza d'antenna come si deve, non ce n'è per nessuno. Ma Tissi, da che parte sei? Verso la zona di Sassari, il versante di Sassari o il versante di Ittiri? Versante Sassari, ho tutto libero sino a Sassari, vedo casa di mio fratello da qua. E allora da lì spari bene bene, c'è una bella posizione, se sei con la parte lì fai un po' di danno, nel senso danno in bene, dai, nel senso che ti fai sentire bello forte. Che radio è quella? 4005 con MD+4. Una bomba, molto chiara e pulita la radio. Veniamo a Luca, io sono, come si chiama, di recente, frequenta, voi dite ci siete da tanti anni, io sono entrato qualche anno fa, recente nel senso dal 2004, e poi mi sono allontanato per un pochettino, poi sono ritornato, eccetera, eccetera. Adesso ho sentito a Luca perché c'era un problema di antenna e vediamo un pochettino. Vai Luca di nuovo. Ehi, ehi, allora, sto a posto, Rob. Tutto a posto. Prendo un attimino che il cane si ha... Ogni volta li metto a posto le copertine, se le leve, fa un casino, buono. Non le piace l'ordine a questo cane. Ehi, ok, bisogna educarli da piccolini, Luca. Grazie, di buona punizione e vedere avere il cane. Ok, Natalino, Alfa 1, Alfa Mike. Non c'è più. C'è l'amico di Giusmi, la Giusmi. Fratello di Giuseppe, Andrea c'è ancora, non li sento più, chi c'è rimasto qua? Guscio. K, ti stai aiutando con qualcosa o stai uscendo liscio tu, Guscio? No, mi sto aiutando, se no non mi sente nessuno, aspetta, così esco pulito. Va a parlare? Devo accordare però, Vabbè, si chiama Sguscio, non Guscio, Sguscio. Vabbè, ho sbagliato, Sguscio, senza aiuto sei 9 più 5, aiutato 9 più 15, quasi, dai, appena appena di mezzo. Perché non è accordata l'antenna, aspetta un attimino che provo, così non sono, ecco, così l'ho accordata senza nulla. Sei quasi 9.10, con i picchi arrivi a 9.10. Luca, tu come mi senti? Adesso sei a picchi di 7. Cazzo, mi aiuta molto la radio comunque, perché di segnale non so neanche come sto facendo a uscire, c'ho un metro di cavo di antenna, figurati. Ah, comunque arrivi bene, non ti preoccupare. Arrivi benissimo, no, non ci sono problemi. Tutto positivo qua. Ho chiamato Natalino, che fine ha fatto Natalino, ci sei ancora? Sì, mi ero spostato, stavo facendo un qualcosa qua. Cacchio, tutti facendo cosa, cacchio, ogni volta che entro in radio tutti, ognuno offende il gosse. Ragazzi, ne fanno dopo, che va a fare una docetta, devo fare me. Stava fumando gli asparagi che gli ho regalato io. Ma perché a prendere l'asparagi ci sei andato lui? No, ne ho fatto due contatti, Robè. Questo così assaggiato, non ce ne sono ancora, non trovo posti dove ce ne sono tanti, magari, perché se trovo il posto poi me li faccio tutti a pezzettini piccolini e me li metto in freezer, buona reddiso. Intanto è poco mi piace a me. Allora io domenica sono andato con mia figlia, sono andato verso Palmadula e ho incontrato un tipo, due domeniche fa sono andato verso dopo Nulvi a Martisi, ho trovato questo tipo anzianotto, a mezzo alla strada ne aveva ogni mazzo di asparagi. Dipende da punti, Robè, sono i punti che magari lì il sole non batte bene, ma sono questa pioggia e dovrebbe, come cazzo l'ho messo il telefono? Allora dovrebbe uscire il sole, vediamo un po', venerdì ho messo sole, poi vabbè sabato nuvoloso e martedì della prossima settimana, dovrebbero uscire di nuovo, cioè con quest'acqua e un po' di sole già escono. Ehi, aspetta, c'era qualcuno sotto, sentivo. Avanti chi voleva entrare, eh? Avanti chi vuole entrare? Io non so, perché tu arrivo molto più forte di Luca. Buonasera a tutti. Cos'è sta vicino della radio? Perché cos'è, troppo alto? Eri troppo forte, là, o eri troppo vicino al microfono? No, questo è il 4.30, è regolato, non lo tocco mai, evidentemente. Ho sollevato troppo la voce. Adesso già va bene. Ok, no, sentivo uno basso basso sotto che stava chiamando, ma cioè non era Cristian ma era di macchina che si stava muovendo. Di nuovo Tissi, Giuseppe da Tissi, avanti a te. Ciao. Ciao Claudio, ben sentito anche a te, ti sentirei più basso se non sbaglio adesso. Sì, S5, di solito riesce a non fare, adesso sì, S5. E ho attaccato un po', dai, un po' l'aiutino, l'importante è che mi sentiate, tanto se che non mi sistemo l'antenna, non posso fare nulla. Però già a breve mi metterò in carreggiata. Se tu senti a noi e noi sentiamo a te, non c'è bisogno di stare attaccato a rischiare di fare danno, non c'è problema Giuseppe, tranquillo. Chi c'è anche con qua, Marino Carriero? Perché stanno chiamando? Avanti chi chiama? Lasciamo un pezzettino bianco, stava arrivato forte. Avanti chi chiama? Vabbè, vuol dire non vuole entrare, era 9 poco fa. È arrivato, Luca, avanti a te. Eia. Io adesso facciamo un paio di tiri al poker, va? Visto così, per ammazzare il tempo. Sta piovendo, adesso si bagna l'antenna, che palle. Claudio, però non ti sei ricordato di me oggi. Ricordato di te? Di cosa, Roberto? Ieri cosa mi avevi detto? Che ne avevi uno tu di quei supportini. Che ne volevo smontare. Anzi, hai fatto bene, eh? E poi stamattina siamo usciti in greffa, e Fabrizio con la sciolotta. Siamo rientrati anche tardi. Sono sotto come sei andato a pranzo. Fuori. Solo ritirare quella cosa, con l'antenna. Mi sono dimenticato, non c'era per niente stamattina, sono uscito alle 9:30, 10:15, è passato l'arco, siamo arrivati che era quasi 2:30. Addirittura, cazzo? Beh, noi conosciamo, che stiamo lì a pettinare bomba. È andata anche bene che non siamo partiti, abbiamo preso l'aereo, siamo andati a farci un caffè a Milano. A Susso. Non è la prima volta, in tempo lo facevamo, adesso siamo anziani, non lo facciamo più. Cappa. E la spada ce ne sono dalle tue parti. Sì, ma sono rimembro, prova a entrare, che ti voto mangiare i ganghi. No, a parte gli scherzi, ce ne sono. Non lo so, non sono mai sceso giù nella cravatta, nel terreno che c'ho dopo il giardino. Non ho visto di spinacine lì, assolutamente. No, quei finocchietti ci sono. Lumacchio, Lumacconi, a chi ne ha più una letta. No, perché dice Luca ne ha preso due oggi. L'ho visto due domeniche fa, un tipo, era a Martis, c'era un tipo, ne aveva un bel matto grosso, un uomo anziano, vabbè, chissà dove l'ha trovato. Guarda, se tu, io ce l'ho fatto una vita in quella zona, se tu vai a Sedini, entri dentro Sedini, poi prendi la strada che va a Sedini, allora fai Bursi, vai la strada, quella lì, quella che praticamente ti porta a Bursi, adesso tu fermi la macchina nella piazzola e costringi tutta la strada camminando, ne fai una cassetta di plastica, ma se c'è una cassetta di plastica lì vanno tutti a farla e poi si riprendono quelle persone anziane, quelli, capito? Se tu vai a Sedine, a Bursi, all'Euro, a Martisi, nel portone c'è la cassetta di plastica con tutti gli asparagi, con fatti a mazzettini, con la raffia, e li hanno fatti tutti in quella strada, è pieno. No, già ci vado. A me me li ha portati l'anno scorso Muros, Claudio, me li ha portati un po', non sapeva dove metterli, le buste erano grandi. No, tu me li hai portati, sono il culo. Infatti ti stavi ricordando, te li ho portati io perché me li ha dati lui, li ha dati a me, a te. A me mi vede un bel amico, le uova micidiali, anche la pasta con gli asparagi, il riso con gli asparagi, buonissimo, infatti mi ha fatto venire voglia Luca. Ok, vediamo se c'è l'amico Giuseppe di Tissi, avanti, se c'è ancora. Cappa, vi sto ascoltando. No, io invece non sapete dove vado a fare asparagi, nella zona tra Ittri e Uri, dove c'è la rovina della chiesa di Paulus. Di lì ce l'ho andata anche io, però ne avevano rascato anche il terreno quando ci sono andato io, diverse volte ce n'erano di piante alla lampadura, però ne avevano tagliato tutto, devi andare presto presto di lì prima che ci vada qualcuno. Cappa, vabbè, devi camminare un po', devi scendere un po' giù nella vallata dall'altra parte, dalla parte opposta alla strada, però già piace né. Io quando vado sempre quella busta, due buste me le faccio. Cappa, e poi sotto Codrongiano è pieno, però deve andare in posti dove non sono trafficati. Ok, e Natalizio c'è ancora? Eia, io ne avevo un po' in freezer oggi, mi ha fatto una bella frittata. Buona, eh? Buona redda, mamma mia, c'ho già la colina in bocca, non ci credi. Ok, cosa ti volevo dire? Tra quella roba là, allora, se ti capita quel supportino del 60, lì metti do l'altro per non rimanere senza. Scusate, Natalino, mi senti adesso? Natalino? Natalino, ascolti a Giuseppe Battisti. E basso basso l'ascolto. Purtroppo ho anche l'antenna messa male. È mezzo in corto che mi è entrata l'acqua e già lo sai cosa mi fa. Perché in un passaggio mi era arrivato bello forte, quindi pensavo che fosse migliorata qualcosa, no? Luca, ci sei? Luca, buonasera, sono rientrato. Tu sei Andrea, così? No, sono Cristian. Ah, tra l'altro di tutte e tre la voce uguale, cacco. Prima qua fai stato quello Giuseppe Lattissi e sembrava Andrea. Adesso tu c'hai la voce uguale a lui. Ancora non ho identificato, vabbè, loro due sono nuovi. E io ti ascolto bene, Cristian, comunque. Grazie, visto, sei andato a massaggio, poi fare le commissioni veloci, poi a domo. Cappa. Io adesso però mi devo spostare, che mi hanno chiamato da un'altra parte. Ciao a tutti, buon proseguo di questo. Ciao Andrea, ciao Cristian, ciao Luca, Natalino e Giuseppe Lattis e tutti gli eventuali ascoltoni, come si dicono. Ciao ciao a tutti. Ciao Roberto, ciao Claudio, buon proseguo, alle prossime. Avanti Luca, se sei in ascolto. Break. Registrato. Avanti. E io, ciao, buonasera a tutti, doppio rumo. Ciao già, buonasera. Te lo ricordi a Sguscio e Andrea il fratello che sono rientrati dopo tanto tempo? Sì, già li ho sentiti dall'altro giorno, sì, vagamente me li ricordo. Cappa, anda bene Meda, riprendi già. Ti volevo chiamare oggi al telefono, ma non sono riuscito più a trovare il numero, va. Se c'hai il mio numero, chiamami che ti devo parlare. Aspetta un attimo che controllo. Penso di sì. Ciao Gianni, buonasera. Buonasera a Toros. Ciao Giuseppe, ciao a tutti gli altri amici, là, non so chi ci sia. Perché ho acceso in questo momento. Ciao Giuseppe. Allora, Claudio e Roberto mi sa che si sono spostati su frequenze alte. Non so se Andrea c'è ancora. Andrea? C'è Cristian ancora, avanti. Hai Gianni, buonasera, ben rientrato. Hai Cristian, è finito? È finito, per me 10 minuti fa che sono di casi gruppi, bip, minuti. Tutti i ritardatari, ce l'hai presente? Gianni, si è perso, Gianni? Tu lo stai uscendo? Io non sento più nessuno, se come state parlando. Giuseppe, sì. Sì, giusto, mi copi. Oh, ciao Andrea, sì, adesso ti ho sentito. Adesso ti sento meglio di prima, è cambiato qualcosa? No, ho riacceso l'aiutino per farmi sentire da te. No, è sicuramente come si sta asciugando l'antenna, come è piovuto, magari si arriva un pochettino meglio, dai. Cappa, io ho dovuto lasciare perché c'avevo una comunicazione in massa e ho visto che gli amici sono probabilmente andati via o rimasti in ascolto. Luca, ci sei? Sì, sono rientrato, anche io dal telefono, gli ha chiamato un amico, gli ha caduto il telefono in terra, è disperato, e siccome ho riparato i telefoni, niente, devo sistemare. Cassa. Cavolo, ripari il telefono, un lavoro di precisione, cazzo. Sì, computer e quant'altro, dai, sì. Cavolo, quindi sei un maestro di elettronica, complimenti. Ehi maestro, no, avanti, Sguscio, dici. Allora, un Mi 9T Pro, c'è da cambiare il vetro. Un? Mi 9T Pro della Xiaomi. Ah, mamma mia, telefoni Vega, per carità. No, è una figata quel telefono, c'è la camera pop-up, è un gioiellino. Mio figlio me l'ha buttata a terra e non funziona più l'LCD. Aspetta che me lo pronunci meglio, perché non ti ascolto. Ti ha risposto un bel foto, un bel amplificato, aspetta. Due secondi che sto facendo la cosettina qua e mi ripronunci piano piano il nome del telefono, così ti dico quanto ho spento. Ok, allora, Milano Imola 9 come numero. Taranto Pro. Mi 9 Pla Pro Pro. Mi 9 T Tango Pro. Ok, ok, se vediamo. Allora, Mi 9 T Pro. Il display costa, aspetta, me l'ho già risposto qua, costa esattamente, compreso di ricarica, 55 euro, perché costa 52,90 più 2 di ricarica, sono 55 euro. Capa, ma c'è anche l'LCD con touch, giusto? Sì, sì, è completo. Poi c'è l'originale, con service pack, foto reale. Aspetta, fammi vedere, poi c'è questo qua anche, il frame, vedi, questo conviene ancora di più, lo paghi di più ma vai sul sicuro, aspetta un attimino, costa 9.000 coso, questo qua costa 90 euro, originale, service pack, foto reale ed è completo di frame, sì. Allora, display originale Xiaomi Mi 9T Pro, vabbè, quello lì è schermo LCD frame, 90 euro. Ciappa, più la manodopera quanto mi viene? Più la manodopera almeno 600 euro. allora conviene, ascolta, allora sfascio anche l'altro e te li do tutti e due. Mimo, cazzo, ma se ti vuoi ne apro un panetto per il prossimo anno. No, vabbè, dai, perché me lo volevo ordinare io e farmelo io, però se c'è uno che me lo fa, che lo sa fare bene, è meglio, dai. Meglio spendo un po' di più, però almeno sono tranquillo, va. Ma hai provato a vedere magari cinesi, non so, quello che c'è, magari loro te lo fanno subito, magari hanno anche il pezzo originale, capito? Perché non ti informi? Comunque, vabbè, da me, vabbè, gli amici non li faccio pagare molto di manodopera. Purtroppo io campo da queste cose, vediamo un po', non mi ha risposto. Fai che te ne esci con... 120 circa, dai, 115-120. K. No, vabbè, quello che c'è da pagare si paga, se è lavoro è lavoro, non è un favore. Certo che questo è un favore, un conto è lavoro. No, ho già chiesto ai cinesi, non ne hanno di quei pezzi e poi loro trattano soltanto Samsung, prevalentemente Android, cioè e iPhone. Gliel'ho chiesto, mi ha detto ti verrebbe troppo perché non ne ordiniamo, bisogna farlo arrivare apposta, ci mette 20 giorni, insomma non me ne volevano fare, va. Sì, non ti preoccupare, già, non so, magari se lo vuoi riparare. Allora, aspettami, salvo questa pagina qua per un amico, ecco qua, ok, fine. E niente, se si può fare, non c'è problema. Io ti consiglio quello assemblato, così non faccio altro che io vado sul sicuro, anche perché volendo posso comprare l'LCD compreso di vetrino, perché sono assemblati, e incollarlo, però sai cos'è, questa colla che vendo non è che sia delle migliori, ecco, non è affidabile, perciò conviene questo, prendere questo assemblato col frame, non faccio altro che smonto il tuo, resta con la scheda, le fotocamere, la batteria, metto tutto lì, coperchio, incollo, poi sei a posto. Capo. Va bene, dai, buono a sapersi, già quando decido già ti cerco. Avanti Andrea. Capo, quanto l'avevi pagato? 35 euro quel cellulare, sguscio. No, il 1920 l'avevo pagato 367 euro scontato, perché è quello da 128 giga con la camera pop-up che esce da dietro. No capo, sto scherzando, ce l'ho presente, l'avevo visto a qualche Natale fa, ti ricordi, con la camerina che esce sopra tipo un periscopietto, Sì, infatti c'è da scannare mio figlio che gli è caduto in terra, a faccia a terra, ma quello lo usavo per i droni, capito? Quello aveva un'ottima luminosità, lo schermo da 6 pollici ed era una figata perché col drone riuscivo a vedere anche di giorno. Sta capo, molto carino, molto carino. Avanti Luca. Sì, vabbè, poi dico chi è che è buono, vabbè, io ho sempre Samsung, ho iniziato dall'S2, l'S3, l'S4, l'S5, l'S6, che ce l'ho tuttora, l'S6 Edge, solo che quello mi è caduto in terra, si è poco rotto il vetro, ma funziona benissimo, e lo sto usando praticamente per, ci ho messo lo speed di mia madre, perché lo uso, perché mi serve, e l'ho messo da parte, io mi sono comprato l'S10, però adesso io questo qua me lo voglio vendere, voglio prendere l'S20. Scusate, bianco un attimo. Ma cosa per comprare? Che dici che vuole entrare, un secondo. Capo, no, io sono un utente Apple, Luca, io c'ho tutto dell'Apple, computer, telefoni e tutto. Però quello mi serviva per delle applicazioni per i droni in modo particolare. Avanti, chi chiamava? Chi è che chiama? Avanti? A me, vedi, l'iPhone non mi piace. È un bel telefono, ho riparato anche l'11 e il 12, due display, di cui uno un ragazzo lo sbatteva a terra, gli ho cambiato il display, poi iniziato a dirmi che il display stava difettando, ma io l'ho provato qua ed era perfetto. Poi non so se magari, siccome lui lo sbatteva a terra, un telefono che ha pagato un botto, poi cosa ha fatto? Vabbè, ha speso 200 euro circa, beh no, 200 euro ha speso, sì, perché gli ho preso un display pari all'originale. Poi cosa ha fatto? Le ha preso, mi sa che se l'ha venduto quello e si è comprato il 13, l'ultimo uscito, da 256 giga, mi ballo 500 giga, non so, 1500 euro, mai li avrei spesi. No, vabbè, io ho un modello base, anch'io ce li ho avuti tutti gli iPhone, però adesso ho un SE, mi va più che bene, tanto guarda, tra computer, tablet, iPad, che ne ho due, eccetera, li uso per lavoro, io ho anche uno studio di registrazione dove uso tutto Mac, e più che altro la mia scelta è per quello, perché ho a che fare con la musica, capito? Io sono un insegnante di musica per lavoro e lo uso proprio per lavoro. Ecco, capito, sì. Vabbè, c'è chi... Sì, sono super veloci con i telefoni, però a me no... Non giriamo tutto di scatole, io sempre Android e mi trovo bene. Con questo qua che ho adesso viaggio tranquillamente. Come cosa ho messo l'Aica mobile e mi trovo più che bene. Capo. Anche Andrea usa il carro armato militare, c'ha invece lui, vero Andrea? Ce l'hai ancora? Mi sa che Andrea si è assentato, tanto bianco. Ma dimmi una cosa, Luca. Dimmela tutta. Perché ho perso il tuo fischio? Cosa? Senta, compriamo il tuo fischio, ma c'ho l'Aica. Stai uscendo male, Cri. Forse devi sollevare il finestrino. Forse devi sollevare il finestrino. Il finestrino è chiuso. Ma se l'Aica è buono come gestore? Sì, allora l'Aica mobile è appoggiata a Vodafone. Io con Vodafone pagavo tutto illimitato 25 euro al mese. Poi con questo qua pago. Pago 6 euro, 5,90 e ho minuti illimitati, messaggi illimitati e 70 giga che io manco consumo. Comunque sto uscendo male, Cri, Se la batti la scarica sicuramente. Sei tutto soffiato. Così. Adesso come sono? Prova. È soffiato? No, sta uscendo male. Adesso? Adesso sto passaggio bene. Adesso com'è? Questa massa ci va bene. Ma sai dove dovresti fare quel microfono? Dove c'è il PTT, spruzzi un po' di VD40. E già c'è un po' più futuro, va. Io sono a mobile, che è diverso. Sempre Vodafone, eh. Boh, lo senti tu? Oh, ma sguscio, lo senti? No, niente. Ogni tanto lo percepisco che mi arriva tipo un'onda di QRM che sale e capisco che sta parlando qualcuno, ma no, zero. Ecco, c'è una zona d'onda. Dove lavoro mi sente meglio? Lavoro in tratti. Gianni, dove è? Vai. Gianni, c'è Cristian. Ciao. Stavo dicendo una cosa da Natale, dal telefono, va. Ecco. E adesso mi sgancio a te, ragazzi. Niente, ci sentiamo più tardi, se non ci sentiamo ci aggiorniamo alle prossimine, ma domani sicuramente. Ciao a tutti, rimango un po' all'ascolto. Ciao. Ciao Giuseppe, ciao, ci sentiamo, dai, alle prossime. Ciao Sguscio, alla prossima, dai, salutoni. Salutatemelo pure a Sguscio che non lo sento. E non penso a voi, già la prova di uscita. Ti saluta anche Cristian, Giuseppe, ciao. Grazie, ciao Natalino, ciao a tutti. Ma dove è uscita Lucrezia Borgia? È Lucchetta, non Lucrezia. Lucrezia? Dimmela, caro. Ciao Gianni Nannini, cosa c'è? Ma dire sei sito che l'abbiamo sentito. Puttana si dai roghi, cazzo. Ma forse io ho stoppato 5 minuti che ero al telefono, dai, 5 minuti, una ventina di minuti. Vabbè, vediamo un po' se è stato Natalino, Natalino ci sei. Ehi! Natalino c'è, avanti, ripetete la tua Natalino. Ehi, aspetta, mi sto misurando la cosa, la glicemia. KK, io non me la misuro, se non mi spavento. Gatto di usa, mi devo assustare. Vado per la dieta. Sì. A dirlo è facile, a farlo è. Ma no, io faccio la dieta, dietro la carbonara. Ma perché gridi, doppio Ru? Ma perché qui gridi, eh? Cuomane. No, non sto gridando. Quando stavo dicendo, Cristian, io ne ho fatto una di dieta, sono sceso 50 kg in un anno, se ti basta. Se faccio dieta la carbonara e 20.000 fasce al giorno. Cosa ti mangi la banana? Dieta la carbonara. E vabbè, comunque.